proprio quella calda calda, quella calda, cioè, siamo calda. Già entrati nella siamo già entrati calda, nella calda. Settimana calda. Io volevo come? Fare questa cosa che non mi riuscirà, la settimana della fiera, ovvero sembra lo sciacquone, Chiara. Sì, voleva fare il ruggito. Se non vuoi te lo faccio io a comando. Facciamo così che è meglio. Comunque, come dice, benvenuti a Coxo Spaziale, come dice il nostro jingle, stiamo parlando di arte contemporanea, perché non si sa mai, magari qualcuno che passa in tangenziale dice: ma di che cosa stanno parlando questi baldi signori e signore? E questa sera è molto difficile, perché cioè non si sa da che parte no. cominciare, da che parte finire. No, c'è un sittone che non passa più questa settimana. Ognuno di noi sceglierà un metodo in base alla sua poetica. Abbiamo già un messaggio al 333-180-94-94. Adoro la vostra sigla, i miei vicini invece no. Michele. Ci dispiace per i vicini. Ma solo la sigla e poi stacca. Esatto. Nel senso che la trasmissione per tutto il resto non gli può fregare di meno. Però Michele? Esattamente. Ciao Michele, grazie che ci segui. Infatti. Mi emoziona. Sei professionale. Beh sì, insomma, voglio dire, è sempre infatti, bello sapere che c'è qualcuno all'ascolto. Si vede che tu lavori in teatro, che hai una struttura che ti sostiene. Una però, struttura però. Giulia Giacomelli è Giacomelli Giulia il tuo account? Oppure e abbiamo già spoilerato la prima ospite, vabbè. Quindi mettiamo un cuoricino che questa l'abbiamo già passata. Poi abbiamo anche Giulia Quadrelli, che sono che quasi quella... gemelle di nome. Esatto, no? È vero. Quasi mi ruba la scena. Ma possiamo dare inizio alla trasmissione? Diamo la contestualizzazione. Io, perché io sono kantiana, voglio dire, filosoficamente certo. parlo, ho bisogno di una struttura, se no hai mi perdo. Di una struttura, cosa certo. ci fai qui, scusa? Appunto, soffro in silenzio. Allora, Chiara. Allora, intanto cominciamo dal numero. Che numero siamo? Perché io ho detto 597, ma non credo che... Io non conto, mi dimentico. E devo andare un attimo a allora, a tanto leggerlo. Che Pasquini conteggia. Siamo alla 517. Beh, però il 7 l'avevo indovinato, vedi? Mi sono avvicinata. Sei una visionaria. Una visionaria. Allora, Michele ci chiede già delle dritte valide per le mostre di questa settimana. No, vabbè, adesso Michele, devi ascoltare tutto. Adesso la smettiamo di cianciare Passiamo subito al dunque. Ecco, già perché mi stavo dimenticando di intanto tagliare, magari diciamo che oltre a Giulia Giacomelli abbiamo qua in ospiti altre due studi che sono Paolo altri due Gabriel. Studi altri sì, due. Ho invertito perché ho detto abbiamo qua in ospiti allora per essere coerente con l'errore perché in teatro dicono che non bisogna correggersi, no? Se si sbaglia bisogna andare avanti, bisogna così. Andare dritto, bisogna avere dei compagni di scena che non rovinano tutto. Show Max the Cogon, siamo informissima stasera. Okay. Chi abbiamo in studi allora, questa sera? In studi abbiamo Giulia Giacomelli, Paolo Gabriotti e Alison Grimaldi Donahue. L'hai detto molto bene. Detto bene. Che entusiasmo. Benvenuti e benvenuti. Questa sera abbiamo l'applauso oltre al ruggito del leone. Che esatto. Io non posso fare perché ho il mio microfonone con la cuffia dell'emarginata. E sono qua in studio, i tre suddetti, perché visto che c'è un magma di proposte, di vicende, di eventi di questa settimana, per cui non ci potevamo stare dietro, abbiamo battezzato di fare una puntata con un focus speciale. Specialissimo. Esatto. Sullo spazio più che ospita più gente, cioè lo spazio numericamente più rilevante in quanto a componenti. Lo spazio meno caldo di tutta Bologna. Sì, esatto. Allora potremmo lanciare l'indovinello. Questo punto. Un'ora di puntata perché qualcuno possa indovinare. Esatto, per indovinare che lo spazio gelateria sogni di ghiaccio. Mm-hmm. A questo punto ci stava il crack dell'ice. Bravissima Giulia. La io faccio la rumorista, è un radiodramma. Io vi posso fare, vi posso dare un wow, tipo questo. Wow! Wow! Wow! Excitement unlocked. Wow! Wow! Mia moglie giustamente sta dicendo che suona come i videogiochi a cui gioco io. Allora, ho detto che è una puntata in famiglia questa sera, mi sento un po' a casa. Ah, quindi possiamo anche spoilerare. No, perché adesso devono indovinare chi di loro tre è mia moglie. E questo è il gioca giue della serata. Il gioca giue. Sicuramente Paolo. Esatto. No, vabbè, a parte raccontiamo un po' che cos'è gelateria dei sogni di ghiaccio. Anche perché, se ho capito bene, non è mai la stessa cosa. cosa, nel senso che negli anni è molto molto cambiata, no? Cioè, è sempre più fredda. Io che sono rimasta, io che sono una donna del Novecento, ero rimasta alla prima formazione, ma adesso magari Paolo ci aiuta a fare un po' il resumé della situazione. Sì, certo. Gelateria Sogni di Ghiaccio è uno spazio indipendente, un project space, per usare un po' i termini che, con cui si chiamano di solito spazi. Dici dove si trova fisicamente. Allora, così. Via Tanari Vecchia, quindi in una delle parallele dietro Piazzetta della Pioggia, via Indipendenza, diciamo. E, nasce in verità nel 2016 ed era uno spazio aperto da tre artisti dell'Accademia di Bologna, Mattia Paillet, Filippo Marzocchi e Marco Casella. Ed è durato così, come uno spazio che proponeva mostre e che faceva parte un po' di quella scena indipendente bolognese, ma che poi collegava. Ormai estinta. Ormai la scena non si estingue mai, perché si rinnova sempre. La scena si rinnova. Esatto, perché uno va via e tre ne arrivano. Non si scioglie mai, perché i sogni sono di ghiaccio. Niente, circa fino al 2023, poi dal 2024 c'è stata la fuoriuscita di Filippo Marzocchi e si è tentato, si è sperimentato per un anno. Si è tentato un suicidio. Ha lasciato Bologna. Ma sei veramente dark questa sera. Art City ce lo rende dark un po' City. Dark City. Mi mette allegria Art City. Scusate, io sono sempre il cazzaro della situazione. Oggi sono in regia, per cui lui poi interrompe sempre. Sempre in regia. No, comunque l'anno scorso abbiamo sperimentato, diciamo, una direzione collettiva con un piccolo collettivo di una decina di persone che erano amiche, attraversavano lo spazio da diversi anni, e quest'anno si è espanso ancora di più e siamo diventati una ventina. Quindi è andata bene, un tentativo collettivo che invece di implodere è esploso. Esatto, si è ancora più ampliato. Ci piace fare le cose al contrario. Ma questo è molto bello. È bellissimo. Al giorno di oggi. Grosso collettivo, diciamo, tentiamo una direzione così assembleare, divisa un po' per redazioni, per interessi delle varie persone che partecipano, che possono venire dall'arte, dalla curatela. Alcuni del collettivo si occupano più di aspetti tecnici, anche per di gestione dello spazio, per esempio le pulizie. No, anche la costruzione. Banalmente adesso stiamo per stiamo per inaugurare anche un display dedicato a progetti editoriali che viene realizzato in particolar modo da Daniele Pulze e Nicolò Gandolfi, che si occupano, oltre a essere artisti, si occupano anche di, diciamo così, artigianato o sviluppi progetti museografici, di design espositivi, per cui è davvero un gruppo che cerca energie, insomma, nelle varie personalità. Quanti siete? Tutti 22. Mi hanno detto che hanno butta dentro praticamente. Esatto. Cioè, uno passa di lì e viene buttato dentro la gelateria Sogni di Ghiaccio. C'è una specie di buco nero, no? Sono cascata dentro anch'io una sera, però mi hanno messo nello stanzino mentre loro dibattevano. Un freddo boia dentro la gelateria. È rimasta molto sconvolta dall'assemblea stile anni 70. Dai, raccontateci qualcosa dell'assemblea stile molto anni 70. Molto affascinante. Mancavano i tazzebao, sai, che c'era una fumana di quelle dei film Nanni Moretti. Ah, proprio. Sì, sì, sì. Io di che vengo. Esatto, veramente. No, dai, raccontate un po' come funziona, poi dopo passiamo al programma. Solitamente ci sediamo praticamente in cerchio, come se fossimo un gruppo di recupero. Io sono e faccio l'artista. Esattamente. Non vado da una mostra da 2 minuti e sostanzialmente ogni volta ci sono dei punti all'ordine del giorno che andiamo a dibattere, insomma, in base ovviamente ad una scelta e ad una decisione che è sempre collettiva, sempre democratica, sempre a maggioranza. E però ecco, solitamente appunto noi ci riuniamo per delle riunioni generali, ma ci sono anche dei sottogruppi, appunto, come diceva Paolo, che sono più specializzati fondamentalmente in ciò che è a loro più affine, che può essere appunto la curatela, piuttosto che l'editoria, piuttosto che appunto la parte legata al bookshop o più gli aspetti logistici, qui la comunicazione. Quindi ecco, ci dividiamo in sottogruppi e poi discutiamo delle scelte che i sottogruppi prendono in assemblea generale, fondamentalmente. E poi c'è questa cosa dell'appuntamento fisso del venerdì. Per ogni cui venerdì noi apriamo lo spazio dalle 7 fino alle 23, ma in realtà poi sforiamo sempre. Con felicità del vicinato, sì, o no? C'è una buona convivenza. Sì, no, siamo molto amici del vicinato, devo dire. Ci sopportano abbastanza, esatto, è fondamentale in queste occasioni. E quindi attiviamo fondamentalmente lo spazio ogni venerdì, ma a volte appunto con delle proposte curatoriali, a volte invece lasciando semplicemente lo spazio come punto di incontro. Vogliamo appunto che quello spazio diventi veramente un punto di incontro per la scena artistica bolognese, ma non solo, perché chiunque insomma è invitato ad entrare, insomma, a anche fermarsi, se qualcuno non si occupa di arte. Beh, certo, assolutamente. Poi ti spiega alcune volte non ci occupiamo noi di arte, cioè non c'è niente, siamo solo là a fare delle chiacchiere, esatto, sì, a passare il tempo. Ma infatti è stato anche un po' il motivo che ci ha portato la prima sera in cui abbiamo aperto lo spazio con un vero e proprio lavoro. Abbiamo invitato Emilio Fantin, Occupa di arte, che non notoriamente. Certo. No, ma anche Giancarlo Norese, che non si occupa di arte, anche lui lo è il prerequisito per poter entrare a far parte di un progetto espositivo e non occuparsi di arte. Esattamente, cioè il conoscersi ancor prima di parlare di arte, fondamentalmente. Questo ci ha portato a scegliere un video di Emilio Fantin del 92 che si chiama Trekking. 1892. Ovviamente. Certo. Sei veramente mesto questa sera. C'è qualcosa che... Perché lui si sente emarginato dietro al vetrone, dobbiamo fare cambio. Mi sento un po' emarginato in effetti stasera. Ed era un lavoro simbolico per noi, perché cercavamo appunto un lavoro che potesse riaprire lo spazio con una certa visione, con una certa volontà, e con anche un certo statement nel voler dire appunto gelateria sta riaprendo con questi presupposti, questi intenti, esatto, questi perché intenti. In effetti quel video era del 92. Ed era, e di fatto era una cosa che non era un evento d'arte, esatto, no? Cioè era un trekking che è stato realizzato appunto da Fantin il 22 novembre del 92, dove ha radunato artisti, curatori, galleristi di allora, tutta la scena artistica bolognese degli anni 90, per portarli appunto sui colli bolognesi per fare questo trekking. E la giornata si è svolta in questo modo, facendo appunto tutt'altro rispetto all'arte, tutt'altro che parlare di arte, socializzando e conoscersi all'arte. Ed è quello che appunto noi stiamo facendo in prima persona, perché ci stiamo conoscendo, molti di noi non si conoscevano prima di riaprire il collettivo. E quindi passanti qualsiasi, che vi occupate di qualunque cosa, se vi trovate verso via Tanari Vecchia, giusto? Numero 4A. Beh, la via non è poi tanto lunga, è abbastanza piccolino. Ci riconoscete, vi trovate a passare di lì il venerdì tra le 19 e le 23, buttatevi dentro perché qualcosa succede, e sentiamo se Marco Roma è passato di lì. Buongiorno, non voglio la pioggia che esce dal cielo, ma voglio il sole che brilla in mezzo alle stelle. Ridatemi la luna, è il sole che brilla di notte. Ridatemi tutto quello che c'è dentro. Da Marco Roma, buongiorno. E buongiorno a te. Sono sconvolti i gelatai di gelateria. Vogliono rubarcelo, vogliono portare Marco Roma. È la cosa, come si chiama, il rito del passaggio nel fuoco di Coxo Spaziale, ascoltare Marco Roma. I vocali che Marco Roma ci spedisce a Radio Città Fujiko tutti i giorni. La mia domanda che vorrei farti ogni settimana è: anche le altre trasmissioni di Radio Città Fujiko fanno un broadcast di Marco Roma, certo, o solo tutte, noi? Nessuna trasmissione trasmissione può andare in onda se ovviamente non c'è un passaggio di Marco Roma. Questa domanda implicherebbe che noi stiamo tutto il giorno ad ascoltare Radio Città Fujiko. Io devo dire che non ho mai sentito nessun altro. Solo noi lo valorizziamo come valorizzare si merita di essere Marco valorizzato. Roma come, esatto. Comunque, abbiamo raccontato cosa fanno dal 2016 ad oggi, adesso andiamo a raccontare cosa fanno da oggi a sabato, che in effetti è la settimana di Arte Fiera, e per cui i nostri cari ascoltatori si stanno aspettando che noi gli diciamo che cosa andare a vedere. Perle di saggezza. Vi spiegheremo esattamente cosa c'è da non perdere, prima di tutto da non vedere, appunto, è tutto in negazione questa sera. Allora, io prima voglio fare una domanda importante, basilare proprio. Che dillo. Tempo farà Ah, vedi? Tipo in gelateria? Vuoi che vada a vedere il meteo? Secondo me farà freddo. Tu in guarda il meteo. Facciamo una cosa, siccome io avevo una domanda ancora più banale. Intanto che io cerco il meteo, magari non siete voi diretti responsabili. Perché gelateria dei sogni di ghiaccio? Like a picture of a sunny day, my whole life was like a picture of a sunny day, my whole life was like a picture of a sunny day, my whole life was like a picture of a sunny day. Siamo tornati. Comunque volevo dire, sei veramente un disturbatore professionale, molto professionale. È entrato con un timing un pazzesco. Timing fantastico. In realtà professionale per niente, perché per tutto il pezzo ho lasciato anche la musica di sottofondo. Però, ah, pensavo il nostro audio aperto, che ti infamavamo per aver la prossima volta facciamo anche così, tutto ensemble. È che se ve lo apro del tutto ve ne accorgete. Che siamo un po' rincoglionite. Ma... Però qualche volta... Allora, procediamo con il palinsesto. Ma anche a rispondere alla domanda che ho fatto prima, è vero, che perché gelateria? Sostanzialmente la prima operazione di gelateria nel 2016, per tornare indietro, è stato chiedere a Roberto Fassone, artista, di trovare un nome allo spazio, e Fassone fece una specie di torneo quasi di calcetto tra vari nomi fino a che non ha vinto Gelateria Sogni di Ghiaccio. Bellissimo. E il logo, disegnando il logo e dando il nome. Che adesso il logo è quello che è tornato adesso con la nuova direzione collettiva. Tra l'altro, per seguire i vostri eventi, i social, quelle cose lì che... Instagram principalmente. Che io non so seguire assolutamente. gelateriasognidighiaccio.com. Ogni venerdì pubblichiamo nelle storie un save the date con una grafica apposita della Ma serata. Se uno volesse invece una newsletter per email... Queste cose non ci competono. Style. Delle 22 persone coinvolte non ce n'è una che si metterebbe a disposizione. No, diciamo i venerdì li facciamo apposta con una comunicazione. L'idea è che siamo aperti, esatto. Quindi si sa, comunicare è molto bisogno. Leggero. Poi per alcune cose specifiche, come è stato Art City, abbiamo fatto mailing. Proprio perché vogliamo che diventi veramente un punto di incontro, no? Non c'è la necessità di dover comunicare ogni volta che lo spazio è aperto. Quindi molto magari bello. Semplicemente pubblichiamo la grafica della serata, che sono sempre realizzate appunto da Marco Casella, e le pubblichiamo nelle storie, quindi diventa veramente un save the date. Io sono grande fan degli appuntamenti fissi, perché sono l'unica cosa che mi entra in testa. Esatto. Anche a me piace questa cosa, infatti. Tipo Coxo Spaziale a lunedì sera. Sì, infatti facciamo così, anzi sarebbe un'idea per la programmazione. In realtà devo dire che si sta creando un appuntamento fisso per ogni spazio per ogni spazio bolognese durante Arte Fiera. Tipo al lunedì sera dopo Coxo Spaziale c'è il Capannaon, al martedì non mi ricordo cosa succede al martedì, non mi ricordo. Cioè, più. È così fisso che non al mercoledì di Arte Fiera inaugura sempre il mambo e subito dopo Alchemilla, al giovedì naturalmente inaugura Arte Fiera, dopo lì è free dopo for all, lì dopo è ognuno vado per i cazzi suoi, e il venerdì naturalmente gelateria sogni gelateria di ghiaccio, sogni di ghiaccio. Certo. Allora, mentre invece già da stiamo saltando una giornata. Allora intanto vi do il meteo di Art City che me l'avete fatto cercare. Da giovedì sole con un po' di nuvolo, quindi tutte le cose all'aperto, va benissimo. Venerdì pioggia, sabato pioggerellina, domenica se finì o c'è qualcosa? Domenica di... neve. Domenica neve, no, quindi loro di sì, ma altre cose magari... Però è perfetto, il clima perfetto. Per materiale, il classico clima della fiera. Esatto. Cioè, quindi ci sarà quella vera Arte Fiera con l'Art City White Night, con la ghiaccina che cade, non vedi l'ora di tornare a casa. Questo tra l'altro, quest'anno domenica proprio. Non c'è neanche l'incontro in Aula Magna, perché gli anni scorsi c'era alle 10:30 l'incontro in Aula Magna con l'ultimo artista l'ultimo artista di Art City, e l'Aula Magna di domenica mattina alle 10:30 erano gremitissime. Un circo massimo incredibile. In concerto. Cioè, perché vuole domenica c'è Act of Kindness, con cui noi collaboriamo sabato, e fanno un live, è una nuova realtà che fa sound art. Dove? Sono alcuni studi d'artista che sono circa in zona fiera, adesso non mi ricordo l'indirizzo. Act of Kindness, Bolognina, zona fiera. Zona fiera. Vabbè, adesso torniamo indietro, però. Sì, tanto poi ci torniamo. Sì, facciamo dell'ordine. Un attimo distratta, andiamo tabula rasa. Gelateria. Torniamo a gelateria Via Tanari Vecchia, sempre il venerdì, però questi giorni della fiera invece ci sarà. Sono Francesca Pasini e state ascoltando Cozzo Spaziale. È tremendo. Ciao Francesca Pasini. Ciao Francesca Pasini. Ci stava bene. Salutiamo Francesca Pasini. Conosco Francesca. Conosci Francesca Pasini? Conosci Francesca. Chi è Francesca Pasini? È una storica dell'arte milanese. Abbiamo fatto una chiacchierata una volta alla Libreria delle Donne a Milano. Mamma mia, ma forse devi venire tu a lavorare. Ha curato con Cozzo Spaziale. Ha curato la vetrina della libreria. Sì. Allora, vabbè, ma tu bene. Sei in un settore limitrofo, ma non io diciamo mi riciclo nell'arte contemporanea, perché il mio settore sei il famoso sguardo esterno. Sono che ci lo vuole, sguardo esterno che tiene un po' la rotta. Esatto. Tornando a gelateria si di è creato un attimo, arriveremo a dire almeno perché se no non vengono neanche a gelateria di sogni di ghiaccio con le persone in ascolto. No, in effetti stiamo facendo un cominciamo giovedì con un evento che inaugura un libro che racconta l'ultimo anno della gelateria. Esatto, vero? Sì. Quindi con tantissime cose che abbiamo fatto, con eventi, con testi, con foto, con varie cose che si può vedere, acquistare. Penso di sì. Sì, prendere a noleggio, prendere in prestito in biblioteca, cioè, come con quel diciamo è una pubblicazione sì. Che celebra un po' visivamente l'ultimo anno, il primo anno di sperimentazione collettiva e l'inizio poi di quest'anno. Quindi e un po' quello che ci avete raccontato con tutte le grafiche di Marco, ci sono anche dei racconti e poesie di un evento che ho curato con la Caterina Molteni e che ha fatto sì che poi entrassero nel collettivo. Sono un po' anche persone che nel 2025 che io l'avevo invitata, perché siccome sta curando altre 17 mostre durante Art City, allora, e l'ho invitata ieri sera e mi ha detto no, io domani sarò stanca. Per cui la salutiamo, salutiamo e speriamo sì. che si stia riposando, che ci si stia caricando certo. Per la settimana, no, perché ha appena curato una mostra alla Project Room che ha inaugurato la settimana scorsa di Valeria Magli, esatto, e io non l'ho vista, incredibilmente io non l'ho vista stranamente una, infatti si fa prima ho mancato un evento che era quello pazzesco, ha nevicato perché Pasquini certo. Che manca un evento quasi impossibile. Allora dopo lo riepiloghiamo fra gli eventi da consigliare, infatti, le cose da visitare, la mostra da non mancare, segnatelo tu che giovedì è anche importante perché inaugura il display per la parte editoria della gelateria. Ah, wow. Esatto, sì. Quindi perché c'è un display che anche? Prima. Ci sarà un una display struttura. Espositivo e di libreria, appunto, che diventerà poi parte integrante dello spazio e lo utilizzeremo anche nel corso dell'anno proprio come anche dispositivo. Che siccome ne avevate tanto di spazio, esatto. Chiudiamone un pezzo e mettiamo il display. Siamo tanti, però produciamo anche cose piccoline. No. Quindi. Okay. La volontà era anche di invitare poi nel futuro, come esatto. Si fa per artisti, anche realtà editoriali di tutto il mondo delle autopubblicazioni d'artista, fanzine, per cioè, cui in che inauguriamo senso il mondo delle autopubblicazioni d'artista, nel senso che ci sono tante progettualità tu editoriali. Tu fai questa domanda. Era una domanda. Ah no, beh, è vero. No, volevo che non sono mai obsolete. Era una domanda per far capire ai nostri ascoltatori più ignari che esiste un mondo di autopubblicazioni d'artista che è super interessante, che esatto. Naturalmente qui avevamo Fruit che poi non c'è più, per cui adesso passate il testimone esatto. È un testimone passato ufficialmente o così una coincidenza di interessi? Anziché aprire una mostra ci saranno degli eventi che dedichiamo a realtà editoriali e diciamo quella che chiamiamo una libreria, che poi funziona più come un display nello spazio, per far esplodere un po' dalla carta queste realtà, diciamo. Per avere contatto con questi progetti piccoli, perché spesso l'editoria non va in mostra, è difficile avere contatto con realtà magari che non sono di Bologna, quindi possiamo invitare persone che vengono scoperte da... Per esempio ho saputo che nella biblioteca di Vicolo Bolognetti c'è una vinoteca, cioè c'è una sezione per le vin. Ma l'ho scoperto da devo ancora andarci, però ho saputo questa cosa. Ma sei un talent subito. Scout veramente senza fine. Lui passa tutto il giorno a battere la città. A battere la città. Lui è iperbole.it. Aspetta che vi interrompo in qualche modo. In realtà vi interrompo con serietà, perché sono le 20:30, per cui ci torno. Sono Serena Brami e ascolto Coxo Spaziale. Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. Parcheggio gratuito. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto. Ci sono tutti gli ingredienti giusti per un'esperienza formativa incredibile. Se hai tra i 18 e i 28 anni, scegli il Servizio Civile Universale per i progetti della Giovanni XXIII. Il servizio civile è crescita personale, umana e civica e dura 12 mesi. Un servizio di 25 ore settimanali che prevede un periodo formativo e un rimborso di 507 euro mensili. Inoltre, potrai scegliere di svolgerlo in Italia o all'estero. Il bando è aperto fino al 18 febbraio. Maggiori informazioni ai webinar informativi su serviziocivile.apg23.org. Servizio Civile Universale. Un anno per te, un anno per gli altri. Al buio, Stevie. Un simposio dedicato all'ascolto, condotto da Alessandro Brighetti con un tentacolare manipolo di ospiti. Sabato 8 febbraio dalle 12 alle 16 in diretta su Radio Città Fujiko. Io non ho capito niente, cos'è che succede con Alessandro Brighetti? Non lo so, però è già la seconda volta che va in pubblicità, quindi... Perché fa un episodio, cioè una puntata speciale invitando vari artisti, studiosi, di parlare della scienza e l'arte del suono. E come mai tu sei così informata, Perché io sono ospite che parlerò del suono nella poesia. Ah, che bello. E cioè, ci sentiremo tante poesie assieme. Ci sentiremo tante poesie. E quando è che andrà? Quando sarà questo appuntamento? Sarà da mezzogiorno un poi sabato. Sabato su 103. Dalle ore fino al 18. Sì, sì, no, dalle sono 4 ore, per cui dalle 12 alle 16 su Radio Città Fujiko 103.1 FM. Per cui metà Art City te la sei giocata se ti ascolti la trasmissione. Ti metti le cuffiette e intanto che ascolti Brighetti e le fantastiche poesie di Alison Grimaldi Donahue, ti sono puoi guardare. Altri, ho invitato altri. Vabbè, allora, giovedì, diteci gli orari perché stiamo disorientando. Giovedì 18 alle 23. Perfetto. Questo gelateria Sogni di Ghiaccio. Il book lounge in party. Via Tanari Vecchia 4 / qualcosa. Accorrete. Focus in editoria. Poi venerdì. Cominciamo alle 16 fino alle 22 con ospiti dalla Svizzera, da Lugano. Un progetto si chiama Canale Milva. Di Giada Olivotto e Camilla Paolino, che fanno una rassegna radio di musica femminile italiana e poi gran chiacchiere e gran risate. E poi avremo dei ospiti poeti alla gelateria che vengono live a fare letture di vari tipi, incluso Davide La Montagna da Torino. Yuna Leonis, uno dei nostri della gelateria, Lorenzo Mari, che è bolognese, e quindi tante persone che vengono a leggere e parlare del loro lavoro. Leggono le loro poesie o leggono materiale di altri? Sì, sì, oppure anche dei altri, sono invitati a leggere poesie, quello che vogliono. Tu leggi? Bellissima questa cosa. Leggo, e mettiamo un po' di musica, più Un'altra artista svizzera, Yamei Zeng, ci ha proposto... È un nome svizzero. Svizzera sì, cinese. Certo. Ci ha proposto un panino speciale che porta Giada da Lugano, prepare. Quindi ci sarà anche qualcosa da stuzzicare. Fantastico. In studio. Ma sarà vegetariano il panino da stuzzicare? Sì. Panino al vapore. Sì, sì, sì. Ah, dai, vegano. Vegano. Scusa, super. Un evento poesia e femminismo, vuoi che non siamo ferrati e sul veganismo? Dalle 8 alle 9 c'è un'ora di open mic per qualsiasi poeta della fantastico. Città di passare Marco Roma, questo è il tuo momento. Ma se non passi in via Tenari Vecchia, porta la tua poesia, cioè puoi leggerlo. Ma quindi può anche magari mandare un audio se non riesce a venire Marco Roma. Puoi mandare un audio. Marco Roma. Non so bene. È il tuo momento. Cioè, chi è al che... nostro Instagram di Canale Milva. Canale Milva. Canale Milva. Adesso... C'è un progetto di Sonnenstuba, che è un'associazione svizzera con cui collaboro da un pochino. Mm-hmm. Quindi pensavamo che fosse carino un po' unire queste realtà. E sabato invece cosa succede? Sabato abbiamo invece gli Aural Tools di Attila Faravelli, mm-hmm. In particolare l'ultimo Aural Tools che è questa serie di oggetti sonori molto semplici da utilizzare che Attila Faravelli, sound artist bolognese, sviluppa da diversi anni in collaborazione invitando insomma sound artist, musicisti, e in questo caso c'è Ma Vacuum, l'ultimo, che è ancora in fase prototipale, che sarà installato nello spazio ed è in collaborazione con Fabio Perletta e Luigi Turra, altri due musicisti italiani. E sostanzialmente dalle 16 alle 22 questi oggetti sonori saranno disposti nello spazio, liberamente utilizzabili. E ci sono degli interventi sonori appunto di Perletta e Turri che vengono, diciamo, immessi in questi... Nello specifico questo Ma Vacuum sono due oggetti che... si annullano o si depotenziano sonoramente a livello sonoro, a livello di frequenza sonora, e, per cui per far uscire il suono bisogna intervenire tra i due oggetti, tra questi due piccoli amplificatori con degli oggetti o con la propria mano, e quindi creano una specie di traccia al negativo dell'oggetto che si interpone tra i due sorgenti sonore. E possono essere fruiti dal pubblico. Sì, quindi. Sì, sono lì per essere fruiti. E il giorno dopo, domenica sera, appunto, ci sarà il live. Posso di fare Faravelli un da intervento Art of sonoro anch'io? Cane, orologio, cane rappresentante dell'amore. Cane morto, cane morto, cane morto, cane morto. Questo è l'intervento sonoro. L'intervento sonoro di Arte Fiera dell'anno sound scorso. Specifica. Era Lina, la figlia della Ludovica Carbotta, che a un certo punto ha sentito cane morto e gli era piaciuto. Io ho ricevuto anche un messaggio da mia moglie che mi dice: non ho capito dove esponi, mi devi fare una mappa. Perché Pasquini stesso è un po' impegnato in questi un attimo, giorni. Sì, no, vabbè, vengo a fare a fare l'open mic a Gelateria Sogni. Devi assolutamente. Scusa, non mi può porto esserci. Marco Roma con me. Ma puoi portare chiunque, direi, a questo punto. Puntatore in famiglia, mogli di qua, mogli di là. Tutti parenti, amici e così. Però abbiamo interrotto Paolo, che stava dicendo qualcosa la che domenica, magari era anche interessante. Cavoli, la domenica. Sì, perché c'è anche domenica, non no, è finita. Così come la serata prima è in collaborazione con Radio Milva e Sonnenstube, in questo caso è in collaborazione con Act of Kindness, che è questa realtà di cui si diceva è al terzo evento, questo che ci sarà domenica, che si occupa di ricerca nelle arti sonore, e che la domenica sera avrà un live appunto di Faravelli e anche una selezione musicale di Glauco, credo. Però ora, non negli spazi di gelateria, ospitati no, da gelateria, no, o questo voi spazio di cui ora non mi ricordo la via, purtroppo non mi va internet, però insomma in zona fiera, ed è questa nuova realtà che invito a guardare, a seguire, soprattutto osservare. Perché domenica vanno a occupare anche, dai, per chiudere in bellezza le corse di Art City. Può essere una bellissima suggerimento. Cosa vuol dire? Bene, scusa, pensavo di essere ignorante. Ah, nessuno sapeva cosa succedeva domenica. Absolutely not. Via Ermete Zacconi 1-3. Ermete così ce l'abbiamo coperta. Ok, ma le corse di Arsizio, scusa, non l'ho capito. No, che si diceva prima, non si sa cosa c'è di domenica. Questa è una cosa per cui chiudere l'ultima serata di Arsizio. Ah, per un attimo ho immaginato che ci fossero delle scommesse clandestine. No. Anche io pensavo che ci fosse una cosa. Forse ci sono, esatto. Chi è più quotato? Era bella questa cosa. Perché dunque c'è il tour Le Porte della Città, special program e percorso a bordo di un bus previsto nelle giornate di sabato 8, domenica 9, sabato 15, domenica 16 febbraio, dalle 15, ha una durata di 2 ore e mezza circa e bisogna registrarsi, non si capisce se è gratuito oppure no. No. C'è scritto il costo dei biglietti, okay, 12 euro, 15 euro. Okay, molto bene. Poi ci sono tutte queste porte. Quindi voleva partecipare ma adesso c'è un attimo ripensato. No, io sono andato dentro culturabologna.it/artcity e sto guardando tutto quello che succede, perché giustamente Michele ci ha chiesto che cosa c'è da vedere e allora volevo adesso dargli... avevamo un progetto noi a questo proposito. Esplicalo. Il progetto è che adesso, visto che tanto non ci si può stare dietro, ognuno di noi in base alla propria inclinazione poetica suggerisce un evento, cioè pesca dal mucchio un evento. Non di gelateria, adesso gelateria ce l'avete presentata. A parte quelli di cui siamo strettamente protagonisti. E vi consigliamo di frequentarla. Vengo anch'io magari questo fine settimana a vedere cosa fate. E anche ogni venerdì. Ma io a questo punto sarò un ospite quasi nel senso che una passante fissa. Però adesso usciamo da gelateria, scaldiamoci un po'. Negli altri 74 posti della città. Facciamo un pari da bar. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. I'd stay right there if I were you.